America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. Rocky, beh, è stato uno dei grandi film di tutti i tempi, la serie di Rocky, Sylvester Stallone, italiano, americano, un film che ha fatto sognare, e devo dire, Rocky ispirato poi a chi? A Rocky Marciano. Rocky Marciano, 49 vittorie, pensate, non ha mai perso uno scontro, ha combattuto fra il 48 e il 55. Ma perché vi parlo di box? Ebbene, oggi al Metropolitan Museum, nel contesto dell'anno italiano della cultura negli Stati Uniti, questo 2013 di cui ogni tanto vi parlo, al Metropolitan si apre una mostra dove ci sarà un'unica statua, una statua bronza del pugile in riposo, una scultura greca di 128 centimetri, risale, pensate, alla seconda metà del IV secolo avanti Cristo, attribuito a Lisippo. È una statua bellissima perché si vede questo pugile seduto, colto così in un momento che dovrebbe essere di riposo, subito dopo un incontro. Le mani sono protette dai cesti, che sono delle fasciature. Ci sono questi inserti di rame sulla spalla destra, sull'avambraccio, che rappresentano delle gocce di sangue, quindi delle ferite. Quindi appena finito il combattimento, un corpo muscoloso con tumefazione, insomma una scultura davvero molto bella. È la prima volta che esce dall'Europa, la prima volta che arriva in America. Beh, questo anno della cultura in America ha avuto come appoggi istituzionali soprattutto ENI e Banca Intesa, ma questa mostra al Metropolitan è sponsorizzata interamente proprio dall'ENI. Dunque io con me ai microfoni di America 24 Paolo Scaroni, amministratore delegato dell'ENI. Buongiorno Scaroni. Buongiorno, buongiorno. E lei come vede intanto questo rapporto tra gli americani e la box? Eh sì, gli americani vanno matti per la box, sono sempre andati matti per la box. Secondo me, anche se negli ultimi anni questo sport così bello è un po' in declino, ma insomma resta sempre una loro grande passione. E anche l'Italia su questo terreno ha avuto dei grandi campioni mondiali, quindi anche noi amiamo la box. Come mai l'ENI ha scelto questa statua? Come mai questa mostra col Metropolitan? Guardi, le ragioni sono più d'una, ma innanzitutto per noi gli Stati Uniti sono molto importanti. Noi operiamo nel Golfo del Messico, siamo uno dei principali operatori del petrolio nel Golfo del Messico, siamo anche in Alaska, operiamo anche nel shale gas, quindi per noi gli Stati Uniti, che d'altronde sono il centro dell'industria petrolifera mondiale, sono un paese importante, e noi da sempre utilizziamo la cultura, gli scambi culturali come un modo di tessere relazioni nei paesi in cui operiamo. Beh, avete anche degli investimenti in ricerca importanti, se non sbaglio, all'MIT, proprio le nuove frontiere. Assolutamente, no? Gli Stati Uniti sono poi per noi un terreno in cui pensiamo di costruire il nostro futuro lontano, con le rinnovabili. Abbiamo da ormai 6 anni un accordo in esclusiva con l'MIT di Boston per la ricerca nel campo del solare soprattutto, ma non solo del solare, perché siamo convinti che l'innovazione in questo campo veda gli Stati Uniti in prima fila, e Stati Uniti, i nostri ricercatori italiani insieme stanno cercando di costruire un futuro per delle rinnovabili che costino poco e che siano efficienti, come purtroppo oggi non avviene. Bene, dunque questa è la ragione di fondo, il forte rapporto con gli Stati Uniti. È una statua sola, qualche volta al Metropolitan altri gruppi italiani hanno fatto delle mostre. Perché una statua sola? Ecco, bene, questa è un po' un'altra ragione per la quale il pugilatore ci piace. Noi da alcuni anni ci siamo un po' specializzati, anzi vorrei dire abbiamo lanciato un po' noi quest'idea di mostre con un'unica opera. Perché pensiamo che quando in un museo o in una galleria le opere sono molte, il visitatore ne esce un po' confuso. Mentre esporre in un unico ambiente un'unica opera straordinaria consente di concentrarsi, di goderla di più. E devo dire che noi ormai da 5 anni organizziamo a Milano, intorno a Natale, proprio a Palazzo Marino, quindi nella sede del comune, una mostra con un'unica opera. Abbiamo esposto Caravaggio, Tiziano, quindi opere straordinarie, e registriamo un successo crescente, incredibile. Pensi che in 15 giorni riusciamo ad avere più di 200.000 visitatori, cosa che è veramente un record. Ecco, c'è un aspetto simbolico in questa statua, perché questo pugile, questo fatto che, insomma, non so, la vita è una battaglia, una lotta, c'è anche un po' questo côté in questa... Altro che, vede, noi in Eni siamo dei lottatori, perché viviamo in un mondo competitivo, pensiamo che la vita è una lotta e pensiamo che è bello che la vita sia una lotta da combattere rispettando tutte le regole, proprio come fanno i pugilatori, perché sennò vengono squalificati, e noi combattiamo, direi dall'epoca di Mattei, combattiamo per crearci il nostro spazio in un mondo del petrolio dove l'Italia non c'era. Ha cominciato Mattei a menare i primi pugni, noi continuiamo oggi come il nostro pugilatore a farci spazio in un mondo che era sempre stato dominato dalle grandi compagnie internazionali americane, inglesi, francesi. Ecco, quindi ci vediamo ben rappresentati da questo pugilatore. E pensando alla lotta generale, la lotta del sistema paese Italia, dell'Europa, la crisi, l'America l'ha superata. Noi a che punto siamo, secondo lei? Penso che il peggio l'abbiamo alle nostre spalle, e lo penso un po' perché ravvedo qualche segnale positivo, non necessariamente in Italia, ma in Europa sì. E poi perché devo essere ottimista, se non fossi ottimista non potrei fare il mio mestiere. Certo è, e senza voler continuare a parlare del nostro pugilatore, ma che certamente noi europei e noi italiani usciremo dalla crisi se lotteremo con caparbietà, con tutte le nostre energie, per farci uno spazio di competitività nel mondo globale. Se continuiamo a piagnucolarci addosso, ho l'impressione che l'uscita dalla crisi avverrà molto molto tardi. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, abbiamo parlato di pugilato, di grandi pugili americani, di questa grande mostra al Metropolitan. Dunque, mi sembra giusto dedicare la canzone a uno dei più grandi pugili americano, Rocky Marciano. Vi faccio ascoltare un brano della colonna sonora del film Rocky 3, The Survivor, Eye of the Tiger. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going! America 24.